Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. 11:11, Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Guardarsi dentro. Probabilmente queste due parole sono, credo, il miglior modo per definire una caratteristica che oggi diventa protagonista della nostra trasmissione. Quale parola associereste voi alla definizione guardarsi dentro? 800 24 00 24. Io intanto che voi vi mettete in contatto con noi anche sul nostro profilo Facebook, via SMS al 349 238 6666. Provo a darvi la mia. Secondo me la parola che associerei alla definizione guardarsi dentro è interiorità, declinata in tanti modi diversi: spirituale, autocoscienza, consapevolezza, autoriflessività. L'interiorità è probabilmente una delle esigenze più profonde dell'animo umano, ma io credo anche una delle più bistrattate. Ma oggi non è dell'interiorità tout court che vi farò parlare, bensì dell'interiorità, udite udite, declinata al maschile, insomma l'interiorità degli uomini, ce l'hanno anche loro. E anche il titolo del libro appena pubblicato da Raffaello Cortina Editore, scritto da un grande amico della nostra trasmissione, il professor Duccio Demetrio, docente di filosofia dell'educazione all'Università di Milano Bicocca e direttore scientifico della Libera Università dell'autobiografia di Anghiari. Buongiorno professore, finalmente. Buongiorno a lei e a voi. In studio con me ho un altro professore, il professor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore all'Università di Milano. Nonché papà di questa casa, non è una bella. Ciao Nicoletta e buongiorno a tutti. Allora, professore Demetrio, partiamo proprio dal titolo. L'interiorità maschile, tema che lei ha scelto per il suo nuovo libro, partendo da un dato di fatto, da un'esperienza personale, che alle sue presentazioni lei vedeva. Sì, l'esperienza che riprendo, devo dire, francamente è desolante. Quando mi accade, quando mi accade di presentare un libro oppure di parlare di qualche argomento che non riguardi lo sport, cosa difficile che mi accada, o di politica, ma quando mi incontro per discutere di argomenti che riguardano la nostra vita strettamente personale, strettamente intima, interiore, appunto, attorno a questioni che riguardano anche il senso filosofico del nostro esistere o anche a volte religioso. Chi sono i presenti? Sono prevalentemente donne, ma non solo, anche nelle esperienze che conduco non solo alla Libera Università, ma anche in molti, molti luoghi di invito alla scrittura di sé, invito all'autobiografia, gli uomini è come se disertassero e fuggissero dal porsi questioni, argomenti a loro più intimi, più vicini. Mi sono chiesto quindi a un certo punto, mesi fa, se non ci fosse qualcosa di anomalo, di strano in tutto questo, e mi sono risposto che al momento, da quanto posso verificare, non solo io, anche con tanti altri colleghi e colleghe, le donne sono diventate le grandi protagoniste di una domanda culturale, di una domanda intellettuale, di conoscenza, di sapere, mentre gli uomini sembrano, ahimè, un po' ritrarsi, ai margini. Ritrarsi o addirittura ritrarsi. Prima di approfondire il tema di oggi, io vorrei aiutare i nostri ascoltatori a capire come lei, professor Demetrio, definisce l'interiorità. Ascoltiamo un breve passaggio del suo libro dove ne parla in modo, direi, illuminante, molto chiaro. Interiorità è pensare, custodire intimità, è avere una memoria alla quale poniamo domande, è tutto quanto non può sfuggire alla coscienza. L'interiorità è preoccupazione etica, è propensione filosofica e artistica, è vocazione religiosa, o soltanto sensibilità per quanto della vita non riusciamo sempre a comprendere. Nessuno, il bruto quanto l'animo migliore, ne è esente. Varieranno i contenuti e le tensioni interiori, ma tanto il criminale quanto l'uomo integerrimo ne hanno una. Chi di più e chi di meno, ognuno ama coltivarla e non si astiene dal farne apertamente argomento di discussione anche con altri, con i quali condivide identiche sensibilità, in ragione della propria storia, di consuetudini educative apprese, nella caparbia volontà di non voler vivere solamente di apparenze. Professor Demetrio, ma lei questa interiorità la declina al maschile. Che caratteristiche ha? Perché Anche gli uomini, no? Ce l'hanno. Sì, sì, anche noi ce l'abbiamo. Ed abbiamo una storia legata all'interiorità, una storia millenaria, una storia che è anche epica per molti versi, perché è la storia del pensiero, è la storia della riflessione, la storia della ricerca anche inquieta di un senso da dare alla vita o di un senso da attribuire a se stessi. Purtroppo questo non è accaduto e non accade a tutti gli uomini. Accade prevalentemente a coloro i quali hanno questa particolarissima propensione di carattere introspettivo a cercarsi, a domandare, ma soprattutto a far vivere dentro di sé motivazioni che sono molto diverse da quelle che prevalentemente coltivano, come dico nel mio libro, coloro i quali forse non si sono ancora evoluti allo stadio di uomini e che possiamo ritenere maschi, perché il maschio sembra fuggire ieri come oggi da questi interrogativi di significato e di senso. Alberto, infatti il professor Demetrio ha usato maschi e uomini e nel suo libro parla di Perseo, vero professore? È stato proprio il primo che da maschio è diventato poi uomo nel significato più profondo del termine. Secondo te, Alberto, è vero che gli uomini fanno così fatica ad avvicinarsi, a parlare della loro interiorità? Stanno ai margini o ancora di più indietreggiano? Perché? Ma io credo che siamo poco abituati e che voi donne lo constatate quotidianamente quando cominciate e poi intrattenete relazioni d'amore con noi. Cioè, una delle cose che davvero in qualche modo vi fa impazzire oppure vi causa forte disagio è il capire di avere di fianco, di fronte un partner che ha che vive anche emozioni profonde ma che non riesce a condividere, che non riesce a trasformare in parole, e dalle emozioni dalle quali egli stesso spesso fugge, perché stare in contatto con quel mondo profondo che un po' ribolle dentro di lui gli costa davvero molta fatica. Io lo vedo nell'esperienza soprattutto degli uomini che attraversano il momento della paternità. È proprio un tale cambiamento interiore che spesso spaventa, con cui non ho l'abitudine a stare in contatto, che molti uomini effettivamente fuggono. Poi l'uomo ha molto la dimensione del fare, per cui a me piace tantissimo vedere i papà che si mettono a fare la stanzetta del figlio dentro la loro casa, ma è ben più faticoso per loro costruire magari una stanza dentro la loro mente mentre lo stanno attendendo un figlio. Allora io chiederei ai nostri uomini, non maschi, all'ascolto, di mandarci un SMS con la loro personale strategia attraverso quale curano, presidiano, alimentano la loro interiorità maschile. Se invece siete donne, raccontateci in un SMS cosa vi colpisce dell'interiorità di un uomo che vi è stato, vi è molto vicino nella vita. Può essere il padre, può essere il vostro partner, ancora un amico, un fratello, un collega. Il messaggio che il professor Demetrio giudicherà migliore sarà in qualche modo così, gli verrà data come restituzione la possibilità di ricevere a casa proprio il libro del professor Demetrio. E intanto devo dire che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici si sono già attivate mandando una serie di messaggi. Franco ci scrive: interiorità è farsi una domanda e darsi una risposta, un po' alla Marzullo. Farsi un bel esame di coscienza, rivedere il film della propria vita, vera autocritica sugli errori commessi nei momenti più difficili e farsi forza ricordando quanto di buono fatto e le persone care che ci circondano. Questo ci scrive Paolo. Però arriva anche un messaggio di Laura: introspezione, io la conosco bene. E ci aggiunge, professor Demetrio, quando lei dice che le sue presentazioni, i suoi incontri sono molto frequentati dal pubblico femminile, ci dice: ci saluti il professor Demetrio. Questa Laura. 800 24 00 24 per suggerirvi, darvi, come si dice sempre, un aiutino. Vi faccio sentire un altro spunto. The Big Kahuna, un film del 2000 diretto dal regista John Swanbeck. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. a volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Interiorità maschile, un ascoltatore o ascoltatrice non si firma, mi scrive il confronto con le donne. Professor Demetrio, questa a me piace, io caldeggio questa. Sì, beh, stiamo un po' correndo, aspettiamo altre naturalmente. 349-238-6666, inviatecele, perché il professor Demetrio leggerà tutte le vostre definizioni, le vostre strategie, i vostri sms, ci aiuterà naturalmente anche Alberto Pellai e potreste ricevere a casa il libro del professor Demetrio. Professore. E il confronto delle con le donne. E il confronto delle donne certamente può alimentare esperienza interiore, dinanzi talvolta alle inevitabili incomprensioni, dinanzi ai conflitti, ma purtroppo l'atteggiamento maschile è anche in questi casi di fuga, di silenzio imbronciato, come di fastidio, e quindi il confronto con le donne può talvolta rivelarsi anche controproducente, perché invece di alimentare queste domande strettamente personali, quell'esame di coscienza di cui parlava prima un ascoltatore, ecco che ci si irrigidisce sulle proprie posizioni e non cambia nulla. Alberto, tu che ti occupi di età evolutiva, sai che poi alla fine si dà sempre per la colpa alle mamme, abituiamo troppo poco i nostri ragazzi, i nostri bambini già ad occuparsi di questa dimensione così importante della loro vita? Ma direi che l'interiorità in realtà è proprio una dimensione, soprattutto in adolescenza, che da sempre il ragazzo e la ragazza presidiano. La tradizione del diario scritto in adolescenza è un modo proprio con cui una persona cerca di narrare se stessa a se stessa per capirsi un po' di più. È vero anche che in questo momento, in questo contesto socioculturale, tutto è diventato esternalizzato e non internalizzato. Il diario personale di un ragazzo o di una ragazza diventa il suo profilo di Facebook, che ha proprio tutto poi un'altra funzione, un'altra finalità, probabilmente diventa molto più esteriore che interiore. Abbiamo in linea con noi un ospite a cui io tengo in modo particolare, ma prima di presentarvelo voglio invitarvi ad ascoltare qualche sua riflessione sul tema proprio di cui stiamo parlando oggi, l'interiorità maschile. Le femmine sin da bambine tengono un diario. Raccolgono le memorie familiari con una grafia leziosetta, curata, precisa. Ogni volta che iniziano un nuovo tomo della loro autobiografia, comprano un set di penne di tutti i colori e gommine profumate. È carino essere carini. È risaputo peraltro che le femmine hanno un lessico più vasto dei maschi, mentre i maschi hanno più sviluppato il senso spaziale. In poche parole, le femmine ti rovinano la fiancata della macchina facendo retromarcia. Poi però sono bravissime a scrivere il biglietto di scuse che ti lasceranno sotto il tergicristallo. I maschi non tengono un diario, non lasciano biglietti, hanno grafie sudice. Il maschio non scrive, semmai sentenzia, scolpisce. Cogito ergo sum, homo homini lupus. Cosa ne sarebbe di queste massime se le avesse scritte una femmina? I puntini di sospensione sono prerogativa delle femmine perché esprimono perfettamente la loro condizione di tumulto interiore. Vengono aspersi come pioggia tropicale all'inizio e alla fine di ogni frase, per innaffiare un ginepraio di tormentate subordinate. Poi, d'un tratto, anche certi maschi hanno cominciato a usarli. Ma i media hanno fatto passare la notizia sotto silenzio. Nessuno ha detto bah. Abbiamo appena ascoltato un breve estratto dal libro Maschi contro femmine, scritto da una coppia di autori, Pulsatil e Fausto Brizzi, di cui noi abbiamo la parte maschile perché in linea abbiamo proprio lui, Fausto Brizzi. Ciao Fausto, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi di avermi invitato. Pulsatil è assente giustificata perché ha partorito da 2 giorni, e... caratteristica delle femmine. Maschio o femmina? Ha partorito una femmina, Clara. E vai. Ovviamente. Ovviamente. Senti, molto femmina, Valeria. Senti, Fausto, anche leggendo il tuo libro, mi sembra di intuire che l'interiorità maschile è una dimensione degli uomini che non vi sembra molto sviluppata. Insomma, che al momento, in questo stadio evolutivo della nostra specie, ha ancora molta strada da fare. Così o mi sbaglio? No, non ti sbagli. Nel film che abbiamo scritto insieme con Valeria, Maschi contro femmine, nel libro che ne abbiamo tratto con tutte le nostre riflessioni, abbiamo capito che i maschi hanno un'età evolutiva di 12 anni per tutto il resto della loro vita, quindi sono in una fase preadolescenziale in qualche modo, e quindi pre-riflessioni, preda soltanto di istinti animali in qualche modo. Senti Fausto, noi abbiamo ascoltato un breve estratto dal libro Maschi contro femmine, che è appunto diventato anche un film in uscita domani in tutte le città italiane, giusto? Esatto, 600 copie in giro, speriamo che il libro ne venda molto di più, insomma, ovviamente. Certo, poi guarda che qua essere benessere porta buono, tutti poi ritornano e mi scrivono, voi non ne avete bisogno, ma insomma aiuta sempre. Va bene. Senti Fausto, cosa possono scoprire gli uomini di se stessi nel tuo film? E perché invece ne consigli anche la visione alle nostre ascoltatrici? Guarda, il film in qualche modo è anche un film dibattito, perché ci sono 4 storie che mettono di fronte punti di vista completamente differenti. Infatti consiglio di andare a vedere il film in coppia, però poi di non lasciarsi andare a dei commenti sulle storie, perché potrebbero essere problematici i dibattiti successivi, perché i maschi penseranno che i protagonisti maschi del film hanno ragione e le femmine viceversa. Di conseguenza godetevi il film e poi andate a casa e l'amore senza parlarne, perché mi sembra la cosa migliore. Quindi abbiamo avuto proprio Alberto, noi ne facciamo tante volte, no, di film terapia, e questa è proprio l'indicazione di Fausto Brizzi: andate in coppia, vedetelo, non discutetene tanto per evitare di prendere le parti dell'uno o dell'altro, tornate a casa e fate l'amore. Noi invece andiamo a sentire le notizie dei mercati, il meteo. Fausto, puoi fermarti ancora un attimo con noi? Assolutamente sì. Magnifico, andiamo. Sapete che vi dico? Io spero soltanto che Dio sia femmina e che quando voi maschi arrivate nell'aldilà vi faccia tutti quanti un culo così. Ogni matrimonio si fonda sul tradimento. Possibile che non sia mai caduto in tentazione? No, è una questione di forza di volontà. Quella è etero, si sono stato? No, quella lì è lesbica. È etero? Lesbica! E se fosse bisex? Maschilista porco. Tricchettona frigida. Un uomo a 40 anni diventa interessante. Una donna, quando arriva il primo capello bianco, inizia l'inferno. Magari ci sentiamo. Anch'io ti amo. Voi donne siete proprio superficiali. Possibile che ci avete in mente solo quello? Primo, quando tradisci è per una botta e via. Punto secondo, mai avere una storia con una donna che tua moglie conosce. Cosa stavate parlando? Da domani in tutte le città italiane Maschi contro femmine, e in linea con noi abbiamo Fausto Brizzi. Fausto, allora ci hai già detto come andarla a vedere, che cosa fare dopo? Sì, esatto, bisogna assolutamente andarci con leggerezza, perché diciamo che la coppia viene messa a nudo in questo film, soprattutto i maschietti diciamo che ne escono male, perché la divisione in generale è stata nel primo film Maschi contro femmine, parliamo male degli uomini, nel secondo film che uscirà a febbraio, Femmine contro maschi, parliamo male delle donne. Non so se ti inviterò allora. No, parliamo scherzo, in maniera ovviamente divertente. No, certo, donne, ma certo, sai che poi io cerco di essere imparziale. Ma io volevo metterti subito in contatto con il professor Demetrio, allora vorrei metterti un po' in gioco. Vai. Fausto, e volevo chiederti, dato che insomma parli anche di maschi e di femmine, che maschio sei tu? O noi abbiamo prima fatto la definizione maschi e uomini, citando Perseo, il libro del professor Demetrio ti fa fare veramente un excursus molto bello anche in questo profilo maschile. Tu presidi la tua interiorità, ti senti uno che la coltiva, che tipo sei insomma? Cosa fai? Ma io la coltivo per lavoro, soprattutto la mia interiorità. Poi nella vita è devastante il mio rapporto con me stesso. Come dice Pulsatilla, come diciamo anche nel libro che abbiamo scritto insieme, io sono una specie di prototipo di maschio per lei, nel senso però negativo del termine. Perché? Cioè, che cosa ti dice? Un accumulo di difetti che si trovano in tutti gli uomini e che nel mio caso c'è un unplan, questo dice Pulsatilla, cioè gli uomini sono vagamente misogini, gli uomini sono vagamente bugiardi, un pochino infantili, e io ce l'ho tutte queste cose. Ce l'hai tu, però sei brava ad averle tutte insieme, no? Sì, ma convivono allegramente tra di loro, quindi sono un ragazzino bugiardo che va in giro allegramente a fare danni, insomma. Professor Demetrio, le piace questo Fausto Brizzi? Sì, quando dicono così, poi alla fine non è vero, no? Sì, infatti c'è qualcosa di subdolo in queste dichiarazioni. A mio parere, quell'allegria molto simpatica evocata rispetto alla misoginia, alla bugia, all'infantilismo, in realtà ce l'ha sempre qualche riflessione su tutto questo, e quindi potremmo accontentarci del fatto che gli uomini almeno sui propri difetti possano prendersi in giro, mantenendo vivace anche il senso dell'umorismo rispetto a se stessi. E purtroppo non tutti hanno il senso dell'umorismo e si prendono molto sul serio come maschi. E questo è il problema, a mio parere. Insomma, questo Fausto Brizzi ci piace, Alberto. Sì, lui si presenta come un caso irrecuperabile, ma probabilmente si è già recuperato da solo. Fausto, no, io so che adesso inizieranno, no, gli impegni per... No? Sì, in questo momento sono in un aeroporto con tutto il cast del film, perché sono a Milano, stiamo facendo il tour promozionale, che è una specie di gita scolastica praticamente, tenerli insieme tutti quanti, allegri, fare in modo che non litighino tra di loro per il vestito, le acconciature, le femmine, piuttosto che i maschi invece per nemmeno in più. Insomma. Senti, ma si fa... gita scolastica. In questa gita scolastica si fa più fatica a tenere bravi gli uomini o le donne? Guarda, si fa più fatica con gli uomini in questo film. E sono tutti dei capocomici quelli che sono in questo cast, sono abituati a essere totalmente al centro dell'attenzione, a essere proprio il sultano che viene adorato. In questo caso sono 6-7 che si devono dividere questo ruolo e sono meno abituati. Grazie Fausto per essere stato con noi. Domani andremo a vedere il tuo film. Va bene, poi mi mandi un messaggino. Certo, poi grazie. Aspettiamo la stangata per noi, eh? Grazie a Fausto Brizzi. Ciao. Ciao. Abbiamo Michela da Livorno. Buongiorno Michela, benvenuta. Buongiorno. Ho mandato anche un messaggio prima. Sì, ma adesso li leggiamo, perché dobbiamo selezionare quello che riceverà a casa il libro del professor Demetrio. Lei Michela che cosa ci ha scritto? Che così... Ho scritto che sono assolutamente convinta che l'interiorità di un uomo sia dipenda dal rapporto che ha avuto con la madre. È molto importante secondo me il rapporto avuto con la madre, perché i maschi tendono ad imitare, a guardare il comportamento e l'atteggiamento del padre. Sì. Sta alla madre, secondo me, aiutare il maschio al ragionamento, all'osservazione. Io ho un maschio e una femmina, ho dovuto lavorare più sul maschio ovviamente, che è più disattento, è più... E più Michela è soddisfatta del suo lavoro? Io il mio? Sì. Con i miei ragazzi? Sì, lei ha detto maschio, il professor Demetrio lo chiamerebbe uomo, chiamiamo gli uomini. Alberto, tu sei... A 19 anni, ora. E quindi è un uomo a tutti gli effetti. È un uomo, sì. Alberto, secondo te è vero, come dice Michela, che ha un grande peso, una grande importanza il rapporto con la madre per un uomo? Ma devo dire che è vero, perché le mamme sono proprio un po' le educatrici, direi, al guardarsi dentro, all'uso anche emozionale delle parole. C'è proprio l'uomo che c'è un uomo raccontato nel libro del professore, che è un padre. Stavo cercandolo qua, perché termina con una carrellata di profili di uomini, esatto, molto eccolo interessante qua, il padre taciturno. ed ecco come conclude il profilo: la solitudine ti insegnai mostrandomi assente io per primo, la distanza e il silenzio furono le parole che ti lasciai. E questo è il problema probabilmente della relazione al maschile tra padre e figlio, dove la parte più profonda non entra in contatto, e quindi è un lavoro, è un duro mestiere che devono fare le madri. Però sentiamo cosa ci dice il professore. Professore, lei che cosa ci racconta? Beh, innanzitutto nell'ultima parte del mio libro io consiglio agli uomini e anche ai maschi, a tutte e due le categorie in questo caso, di andare a scuola dalle donne. È una proposta simpatica, credo per alcuni versi divertente, ma anche molto seria, perché per me andare a scuola dalle donne significa in primo luogo acquisire una sensibilità per la poetica dell'esistenza, e spesso i maschi fuggono da questa dimensione, li ridono, la prendono in giro, e questo vuol dire avvicinarsi di più proprio alla letteratura poetica. Il secondo momento di questa scuola è esercitare la propria coscienza e autocoscienza, possibilmente insieme, interrogarsi, riflettere. Il terzo momento è andare insieme, camminare, confrontarsi. E questo è senz'altro un invito che io raccolgo anche dalla mia storia rispetto a mia madre, che aveva queste tre vocazioni. Camminavamo insieme, chiacchierando, ci ponevamo problemi, leggevamo insieme poesie. Però anche gli uomini hanno grandi responsabilità a questo proposito quando coi loro figli interpretano in fondo la natura più antica dell'essere profondamente uomini, che è lo stare in silenzio, il muoversi anche nei luoghi più diversi, più strani, più affascinanti, rivivendo insieme delle avventure. Ecco, la possibilità tra padri e figli maschi in questo caso di vivere delle esperienze insieme forti è senz'altro un'iniziazione all'interiorità. Alberto, prima, no, adesso non si può più, perché ci sono, c'è la viabilità, e poi torniamo subito insieme con la lettura di alcuni sms che stanno arrivando con grande soddisfazione, numerosissimi. 349-238-6666, il professor Duccio Demetrio sceglierà l'SMS, e la vedo, vero? È difficile, tanti, ma noi li facciamo tanti. Lavorare questi prof. A tra poco. La vita interiore è una risorsa impareggiabile, qualunque sia il punto di vista, di genere o meno. Grazie ad essa, il sentimento dell'io, la consapevolezza di esistere come persone dotate di una singolarità irrinunciabile, ha modo di crescere, di difendersi da ogni suo detrattore e aggressore. Da privilegio, tuttavia, la vita interiore, se soltanto rovello e non maturazione di sé, può diventare una trappola mortale, una malattia, una negazione dell'io. Del nostro diritto di dire io o noi. Il diritto di stabilire e mantenere una relazione con se stessi che sia superiore a sé. Infatti, non si può parlare di soggetto senza ricorrere alla parola coscienza. Il danno è irreparabile quando l'interiorità si sottragga a ogni eco e restituzione ad altri dei suoi benefici. Abbiamo ripreso il passo con un breve estratto dall'interiorità maschile, le solitudini dell'uomo, del professor Duccio Demetrio, che è qua in studio con me. Alberto, leggiamo alcuni dei messaggi che sono arrivati, sì, come sono definizioni. Tantissimi, perché ne scegliamo due o tre. Per me scoprire la mia parte interiore è stato possibile solo nel momento in cui ho perso la libertà e mi sono trovato solo con me stesso in regime detentivo. Marco. Paci i sentimenti, esprimi sincerità, ecco l'interiorità. Un altro molto interessante di Susanna: l'introspezione maschile è come l'araba fenice. Quei pochi che ci provano trovano qualcosa di troppo scomodo e troppo difficile da affrontare e quindi lasciano perdere. E a proposito di leggere, c'è un libro che in queste settimane tantissime persone stanno leggendo. Ha sfiorato le 150.000 copie in meno di 15 giorni. Vi facciamo ascoltare un breve estratto, poi ne parliamo col suo autore. Osservare gli altri è una delle cose che gli riescono meglio. Isolare i dettagli che contano, estrarli dal flusso del generico e dell'insignificante. Non ha mai davvero cercato di sezionare questa capacità, ma se dovesse farlo, direbbe che è una miscela di curiosità, fastidio, partecipazione, distanza, comprensione, insofferenza, simpatia, avversione, tutti sovrapposti nello spazio di un'occhiata. È questo che lo trascina in un istante oltre la superficie di un'espressione o di un gesto, dritto fino alle ragioni interiori. È da qui che è arrivato a scrivere e non viceversa. Quello che ha dovuto fare nel corso degli anni è stato imparare a tradurre in parole le sue osservazioni e intuizioni, ricomporle e articolarle in forma di personaggi e storie. Eppure ogni volta che scrive ha appunto la consapevolezza acuta di operare una traduzione, con una conseguente inevitabile perdita di complessità. Gli sembra sempre che la parte più interessante e sottile e contraddittoria resti fuori dalle sue descrizioni e dai suoi dialoghi, persa come adesso vanno perse le ragioni dei passeggeri che a ogni fermata scendono dal vagone e corrono via. Sa benissimo che per non perderla dovrebbe decidere di cambiare radicalmente la destinazione della sua energia vitale, riversarla nel suo lavoro molto più che nella sua esistenza fisica, invece di cercare di dividerla a metà. Non si ricorda chi abbia inventato per primo la massima «o vivi o scrivi», ma è un'idea che lo ha sempre riempito di orrore. Gli sembra il più vile e inaccettabile dei baratti. Il brano che avete appena ascoltato è un estratto dal nuovo romanzo pubblicato da Bompiani, Lei e Lui, di Andrea De Carlo, scrittore molto amato e molto letto, che è in linea con noi. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Andrea, il tuo nuovo romanzo è un'occasione straordinaria per lavorare in modo speculare sull'interiorità maschile comparandola a quella femminile. Tu infatti racconti la stessa storia, la storia di un amore, usando il diverso punto di vista dell'uno e dell'altra protagonista. E per te quanto è stato faticoso, essendo uomo, differenziare le angolazioni? Per uno scrittore maschio è, credo, la sfida ultima, credo che sia la cosa più difficile che ci sia, ma anche la più affascinante, provare a rovesciare il proprio punto di vista, no? Quasi in modo speculare, quasi il modo opposto di vivere, di sentire le cose, no? A un certo punto c'è lei, la protagonista, che dice: siamo come due animali di specie diverse, anche se tecnicamente siamo della stessa. Beh, vivere una storia, incalarsi dentro i panni di un personaggio femminile, è un po' l'esperienza di veramente di vivere dal punto di vista dell'altra specie. Senti Andrea, il professor Demetrio diceva: andate a scuola dalle donne, e quindi scrivendo anche di una donna, di come vive l'amore, andando così a spaziare, a descrivere l'interiorità femminile, in fondo anche l'uomo, Andrea De Carlo, in qualche modo fa un percorso, un lavoro su di sé. È reale questo oppure no? Ma è molto reale, sì, e credo che poi una cosa simile succeda poi a chi legge. Se un uomo legge, credo che gli capiti la stessa esperienza che ho vissuto io scrivendo, vale a dire di trasferire il proprio punto di vista, il proprio sistema percettivo in quello di una donna, che appunto è sostanzialmente, radicalmente diverso. Credo che sia un'esperienza molto utile e naturalmente richiede partecipazione e richiede una forte motivazione, vale a dire. È una lettura per donne e per uomini, non per maschi, come sottolineava il professor Demetrio. Sì, no? Per uomini nel senso pieno del termine, ce ne sono per fortuna e meno male che sono così diversi da noi. È una abbinata vincente. Alberto. Sì, ho una domanda anch'io per Andrea De Carlo. Cioè, il suo è davvero un libro interiore, ha un flusso narrativo che parte dal di dentro. Mi domando se un libro così può diventare un film, oppure solo le parole possono accompagnare il flusso dei pensieri, mentre le immagini sottolineano molto di più la dimensione del fare. Faccio questa domanda perché forse il tema di cui parliamo oggi, l'interiorità, è così affaticata, così in difficoltà negli uomini e a volte anche nelle donne, perché la nostra è davvero una società che guarda molto le immagini e ascolta poco le parole, e lavorando sul significato. Cosa ne pensi, Andrea? Ma io penso che sia un'osservazione molto giusta, e credo che sia proprio per questo, cioè per il fatto che un romanzo si rivolge all'interiorità. Per questo il romanzo non è sostituibile, e credo il rapporto che una persona stabilisce leggendo un romanzo sia molto più profondo e duraturo come effetti rispetto alla visione di un film, per quanto il film sia bello. Ed è anche per questo che io sono sempre stato molto diffidente e, devo dire, contrario di principio a vendere i diritti cinematografici dei miei libri, perché penso che sia molto bello rispettare la lettura individuale, interiore appunto, che non è un'operazione seriale, il lettore non è un fruitore passivo, uno che sta lì a ricevere immagini che gli vengono buttate nella retina, è uno che deve costruirsi la storia, deve mettere in gioco le proprie sensazioni, la propria sensibilità, e questa è la cosa unica di un romanzo. Andrea, io ti saluto e ti ringrazio, ricordo Lei e Lui, pubblicato da Bompiani. Grazie Andrea, buona giornata. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie anche per noi. Professor Demetri, abbiamo 30 secondi per dire qual è il messaggio che l'ha colpita, ha toccato la sua interiorità. Posso leggerlo? Certo. Allora lo leggo. Interiorità significa non avere paura di sondare ciò che siamo veramente, negli aspetti positivi e in quelli negativi, difficili da ammettere. Il mio compagno esterna la sua interiorità esprimendomi senza vergogna ciò che prova, con gesti, con frasi talmente belle e profonde da farmi emozionare. Tutti i giorni. È serena, grazie alla collaborazione con IBS, potrà ricevere a casa il libro del professor Duccio Demetrio, quindi un libro con dedica e motivato. Grazie al professor Duccio Demetrio, grazie ad Alberto Pellai e a voi che ci avete seguito. A domani. Essere e benessere.